come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:37 minuti in questo momento. I numeri per chiamarci li sapete, ve li ripeto: numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it. Studio aperto. Non rispondo a domande sulle comiche. Nella conferenza stampa del Consiglio europeo esplode l'ira di Berlusconi sull'inchiesta di Bari. Tutta spazzatura, dice, e la farò fuori come quella di Napoli. Il premier si sfoga, basta spioni, in un'Italia di questo genere io non ci sto. Al processo per l'omicidio di Meredith parlano i genitori dei due imputati. So tutto di mio figlio, afferma il padre di Raffaele. Su di lui sono stati commessi errori clamorosi. Amanda sta raccontando la verità, ribadisce la mamma, non ha mai pensato di fuggire. Dall'assalto alle ville all'arrembaggio degli yacht, banditi in azione nel Golfo di Napoli, copiando lo stile dei pirati, hanno derubato un imprenditore e gli hanno portato via anche la barca. Caccia i titoli brevi di Sky, 18:30. Inchieste di Bari, Berlusconi, tutta spazzatura, la farò fuori come a Napoli. Perfini, governo stabile, ma è a rischio la fiducia dei cittadini. Pirati di casa nostra in azione a Posillipo, rapinato un imprenditore. Allora, la spazzatura, Berlusconi e la spazzatura. Dice, quello che sta uscendo in queste ore, in questi giorni, è solo spazzatura. Non c'è nessun problema, almeno da quello che dice Berlusconi, secondo lui, di natura istituzionale, che riguarda la riservatezza del Presidente del Consiglio, che riguarda le istituzioni. Sembrerebbe la prima risposta di Berlusconi dopo la vicenda da Dario. Sentiamo Berlusconi spazzatura, Berlusconi spazzatura. Io poi di spazzatura me ne intendo, perché a Napoli l'ho fatta fuori, farò fuori anche questa. E una telefonata rubata, una telefonata tra Berlusconi e Ghedini rubata dalle telecamere. È evidente che sta parlando con Niccolò Ghedini, lo chiama Niccolò, non c'è niente di particolarmente, come dire, scabroso e di misterioso in questa telefonata, però certo è significativa questa telefonata, in cui sentirete solamente la voce di Berlusconi, naturalmente, perché non è un'intercettazione. E fa capire come la situazione sia convulsa, come ci sia un continuo collegamento tra Berlusconi e i suoi, e sia una situazione da affrontare minuto per minuto. Sentite. Ma Nicolò, ma ti sembra possibile che tu possa pensare? Che succede? C'era una cosa del genere di me. Mi offendo io a questo punto. Ma adesso facciamo un comunicato, chiamo subito Paolo Bonaiuti e gli dico di fare un comunicato, perché qua ci sono anche cose riportate in altri titoli che non ho assolutamente detto. Non ho mai parlato di un complotto oscuro, non ho mai detto che temo di essere spiato, non ho mai detto che il mio avvocato è uscito pazzo, non ho mai detto quell'altra cosa che adesso appena visto qui che mi ha fatto incazzare, risponderò col mio suo volto. Ma veramente, una cosa incredibile. Questi sono, e lo vedi che tu come sono dei disgraziati. Intervengo adesso, me l'hanno detto in questo momento, intervengo in 30 secondi. Ciao, intervengo subito, ciao. E poi a un certo punto Berlusconi chiama Bonaiuti. Il comitato di crisi è composto principalmente da due personaggi, Niccolò Ghedini e Paolo Bonaiuti. Poi si rivolge ad alcuni giornalisti, perché se la prende molto con la stampa per come sta trattando la vicenda, e dice: povera Italia, sentite ancora. Vi dovete vergognare, povera Italia, se andiamo avanti così, quello che dice un marito alla moglie sul cuscino della camera da letto sarà in prima pagina sui vostri eccellentissimi giornali. Io non ci sto a un'Italia di questo genere, no? E quindi cercherò di far sì che non si arrivi a questo livello. Alle 18:41, 800 24 00 24, dopo aver sentito un po' di Berlusconi di oggi, andiamo a parare a Giuliano Ferrara, che è molto arrabbiato per come Berlusconi sta gestendo questa vicenda, e se la prende, sbotta proprio con l'avvocato Ghedini, quello dell'utilizzatore finale. Sentite Giuliano Ferrara questa mattina. Che dovrebbe fare Berlusconi, secondo lei, adesso? Non perché il problema di come si difende un premier è un problema politico per la Repubblica. Allora, io credo che tutte queste dichiarazioni è l'ultimo utilizzatore della merce, quindi non c'è niente di penalmente rilevante. Oppure l'altra cosa che ha detto Chedini ieri, con tutto il rispetto per l'avvocato Chedini che fa un mestiere difficile, dice ma che non deve pagare nessuno, potrebbe avere grandi quantitative di ragazze gratis. Ecco, tutto questo è assurdo. Intanto perché un presidente del Consiglio si fa difendere dall'avvocato? Un presidente del Consiglio si deve far difendere da un genio della politica, da Rahm Emanuel. Si deve far difendere da gente che ha gli attributi, che sa cos'è il Parlamento, la classe dirigente, i giornali. Gli avvocati sanno solo delle stupidaggini che servono nelle aule dei tribunali. Scusi, lo so. Secondo me dovrebbe fare un po' come Clinton. Ma lo congedi l'avvocato Chedini. Fare una bella intervista in cui spiega le cose. Bravo. Questo era Carlo Rossella, il quale stamattina, durante la trasmissione di Ferrara, a un certo punto ha cominciato a spiegare come si svolgono le feste a casa Berlusconi. E secondo lui naturalmente non c'è niente di particolarmente malizioso, di scabroso, eccetera, e poi ha raccontato che tutti quanti vanno via a mezzanotte e Berlusconi a mezzanotte inizia a lavorare con i dossier per il paese. A un certo punto è intervenuto un ascoltatore che ha detto una frase molto carina, dopo ve la faccio ascoltare. Ho impressione, diceva l'ascoltatore, che le feste iniziano quando Rossella va via. 800 24 00 24. Ma cambiamo completamente argomento. Un altro dei temi che vi voglio offrire: ieri sera non ho sentito molti interventi, li voglio sentire assolutamente questa sera, su quello che è avvenuto nei tribunali di Roma, dove il caso di un ragazzo che investì e uccise due fidanzati è stato completamente ribaltato. In primo grado era stato condannato per omicidio volontario a 10 anni, adesso la Corte ha deciso, quella d'appello, che era colposo, dunque la pena dimezzata. Sentirete la voce strozzata della madre, questo è naturale. Secondo voi bisogna intervenire su questo fronte oppure è il naturale corso della giustizia e l'incidente automobilistico provocato, la morte attraverso un incidente automobilistico non può essere comunque mai omicidio volontario? Sentite. Mi baciava non sulle guance, mi baciava sempre sulle labbra e questi suoi baci mi mancano molto. Le ferite della mamma di Flaminia oggi bruciano ancora di più. Non bastava il dolore per quella notte del 22 maggio dell'anno scorso, quando la figlia fu travolta e uccisa insieme al fidanzato da un pirata. Ora anche la giustizia l'ha tradita. Pena dimezzata da 10 a 5 anni per Stefano Lucidi e in appello l'omicidio volontario è diventato colposo. È quasi un'istigazione questa, è un'istigazione quasi a delinquere. Quella notte Lucidi guidava a folle velocità, passò 2 semafori con il rosso fino a falciare ad un incrocio di via Nomentana a Roma i 2 fidanzatini in motorino, poi scappò via. Alessio e Flaminia, 22 e 23 anni, avevano tanti sogni. Flaminia e Alessio amavano molto i bambini, lei voleva avere tanti figli, ve lo diceva sempre, progettava il suo futuro diventando presidente di Confindustria e mamma di tanti bambini. Difficile oggi persino provare sentimenti di odio. Io ho dei piccolissimi momenti di rabbia come questo. Il dolore per la perdita di un figlio è talmente infinita che non c'è più spazio nemmeno per l'odio. Va bene, 18:45, vi faccio ascoltare poi, passando ad un altro argomento ancora. Io non so come possa venire in mente a qualcuno, il Comune di Milano è un discorso che si può allacciare anche a tutte le vicende di cui abbiamo parlato in questi giorni, cioè quelle che riguardano il sesso e la politica. Come possa venire in mente ad un amministratore di varare un'ordinanza per proibire la vendita di alcolici ai minori? È una cosa talmente folle da pensare che non capisco come possa essere partorita. Giampaolo Landi di Chiavenna è assessore al Comune di Milano, sentite. Posso fare l'ordinanza e poi bisogna anche farla rispettare e quindi essere capaci di avere il controllo del territorio e soprattutto applicare le sanzioni, per cui se c'è un esercente che sgarra e dovesse vendere o somministrare alcolici ai minori, beh, è chiaro che questo signore deve essere sanzionato e mi piacerebbe addirittura, ma questo dovrebbe essere un provvedimento a livello nazionale, arrivare anche alla sospensione della licenza. Beh, insomma, questo è normale, quando si fa un'ordinanza poi bisogna farla rispettare, questo è il primo problema in Italia. Ma perché Giampaolo Landi di Chiavenna, a me pare incredibile, Landi di Chiavenna, la voglio chiamare questa sera, perché vuole fare questa ordinanza? Sentiamo. questo abuso dell'alcol può effettivamente determinare e determina gravissime conseguenze anche alla salute, oltre al problema della sicurezza sociale, perché questi ragazzi che sballano di sera, eccetera, ubriachi e quant'altro, poi sono facile preda magari di abusi sessuali se sono ragazzine, o comunque non avendo più la capacità, l'autocontrollo, i freni inibitori, possono diventare soggetti anche di violenza o soggetti violenti, fino ad arrivare alle famose stragi del sabato sera. Le stragi del sabato sera, altre cose, ma queste cose, su queste cose si interviene vietando la vendita di alcol ai minori? Io dico che siamo veramente a dei provvedimenti che vengono usati così, vengono gettati lì solamente per la campagna elettorale o non so per che cosa. Con grande piacere ospitiamo, dopo diverso tempo, ma insomma era quasi d'obbligo in questi giorni, Filippo Ceccarelli. Ciao Filippo. Ciao, buongiorno, buonasera a te. Filippo Ceccarelli è autore di un libro che è uscito nel 2007 praticamente in seconda edizione con aggiornamento, che è una sorta di Bibbia per chi segue le cose del palazzo e non solo, Il letto e il potere, storia sessuale d'Italia da Mussolini a Ballettopoli. Beh Filippo, urge quasi un ritocco a questo punto, che dici? Insomma, un aggiornamento o no? Guarda, era in realtà è stato una cosa travagliatissima, perché già nel 2007 chiudere il lavoro per la Longanesi, insomma, è stato veramente molto complicato, nel senso che ce n'era sempre una. Io ricordo che c'era la crisi coniugale di Fini, poi c'era stato il caso Mele. Io praticamente mi trovai a chiudere proprio in extremis, riuscendo a infilare la storia di questo deputato del centro, sì. Democratico, cristiano, adesso con Pionati, sì. In qualche maniera era stato beccato con due squille in un albergo, insomma, quindi ce n'era sempre una. Poi dopo di allora sono arrivate le intercettazioni, sono arrivate le varie tranche di intercettazioni, insomma, questo cosa significa? Che questo è il terreno, diciamo, in cui si va sagomando la lotta politica in questo paese. Questo è questo aggiornamento costante e, per certi versi, almeno per me soggettivamente, un po' nauseabondo, perché poi sì, alla fine, insomma, uno vorrebbe anche occuparsi dell'anima o di progetti che riguardano la collettività, non che questi non abbiano un senso, ma insomma è che ce n'è sempre una, perché per delle ragioni proprio strutturali e di sistema ormai. E voglio chiederti una cosa, secondo me la cosa alla fine più grave che potrebbe venire fuori da queste cose che riguardano il Presidente del Consiglio non è tanto il fatto che gli possono piacere le donne, o che sia andato a donne, o che magari abbia potuto pagare qualcuno, non lo so, lui nega, eccetera, è il fatto che queste cose alla fine si vengano a sapere in maniera anche, se vogliamo così, plateale, perché altri uomini di Stato, tu lo sai benissimo, hanno avuto amanti, magari anche prostitute, eccetera. Però tutto avveniva nel massimo della segretezza, con un cordone sanitario intorno che ha sempre impedito, se non molti anni dopo, attraverso vari poi successivamente libri o memoriali, eccetera, che si venisse a scoprire qualcosa. Secondo me la cosa più grave, forse, se vogliamo definirla così, è questa, o no? Guarda, io penso questo, in realtà è così, nel senso che l'attualità ci pone di fronte a una conclamazione di queste vicende, però questa ha una spiegazione. Da un lato, secondo me, un sistema politico, non solo italiano, ma insomma soprattutto italiano, nel quale esisteva una forte cornice ideologica, esistevano in qualche maniera dei partiti chiesa, delle grandi sì, utopie, delle ideologie, eccetera, garantiva in qualche maniera una maggiore riservatezza e anche collocava queste vicende su una dimensione che poi era quella appunto delle umane debolezze, ma insomma tutto insomma, non usciva mai nulla, ecco. Diciamo, rispondevano a delle cose più grandi di loro. Sì, sì. La seconda ragione, diciamo, di questa invasione di privato nella sfera pubblica, fino a creare appunto un'area grigia dove non si distingue più quello che appartiene all'individuo e quello che appartiene al pubblico, e consiste nella moltiplicazione di fonti di tecnologia tecnologiche di riproduzione di immagini e di suoni, nel senso che tutti vivono costantemente nel mondo politico sotto allo sguardo delle telecamere. Sì. E anche le persone normali che non fanno parte della, insomma, della classe politica hanno i telefonini, si fotografano costantemente qualsiasi momento della loro esistenza. Quindi in realtà si è venuta a creare come una specie di panopticon, una specie di galera dove la solitudine è esclusa, dove la riservatezza non esiste più. Voglio chiederti un'altra cosa che riguarda invece le possibilità di sbocco di questa vicenda. Tu che sensazione hai? Che sbocchi può avere per la stabilità del paese? Ecco, questo intendo. Questo è complicato dirlo, certo sono ormai un mese e mezzo che si balla come io non ricordo di aver. Cioè io leggo delle cose incredibili, c'è ancora molti esponenti della maggioranza, parlano di complotto, qualcuno oggi di complotto internazionale, insomma io credo che anche il modo di rispondere a queste cose sia sbagliato. Ma sai, parlano, diciamo quelli del centrodestra parlano di complotto e si guardano tra di loro, si guardano negli occhi, nel senso che la politica vive di complotti, nel senso che qualsiasi mossa politica per essere efficace ha necessità di riservatezza e quindi già è un complotto. Il problema è che sa un po' di espediente disperato, al tempo stesso anche rituale di esorcizzazione. Non vuol dire niente, è semplicemente un modo per esprimere una paura. Poi dopo, diciamo, per fare i complotti non si va mai dal notaio, a volte lo si scopre dopo 40, 50, 60 anni. Cioè la tua sensazione è che la classe del centro politico e del centrodestra sia davvero in questo momento in grande ambascio, in grande difficoltà, cioè in grande tensione o no? Io credo di sì, io credo che loro in questa fase qua abbiano, e la cosa che più stupisce è che è in realtà poi Berlusconi aveva fatto il partito del centrodestra, aveva vinto le elezioni, sì, poi certo. Le ha vinte in un momento di grande successo, l'opposizione è spappolata, ecco, però nonostante questo è come se una leadership avesse in qualche maniera esaurito il suo compito e questo fatto qua lo si percepisse attraverso cose apparentemente strane alla sì, politica sì. tradizionale. Loro presentano, nel centrodestra si presenta in qualche maniera un esito per certi versi terminale del Berlusconi. Ho capito. Anche se diciamo con i criteri della politica tradizionale non ci dovrebbe assolutamente essere. Le prospettive per l'Italia sono prospettive abbastanza complesse, nel senso che poi sai su quel terreno là chi di rivelazione sulle debolezze umane colpisce, di rivelazione anche sulle debolezze umane viene colpito, ecco. Assolutamente, grazie, anche se non dobbiamo mai sottovalutare le capacità di Berlusconi nella grande difficoltà di rialzarsi e di reagire sempre con grandissima prontezza. Grazie a Filippo Ceccarelli. Una delle cose più geniali che ho sentito negli ultimi mesi, forse negli ultimi anni, ci riguarda personalmente, però ve la voglio proporre lo stesso, perché è eccezionale, so che molti di voi saranno d'accordo, un po' meno, come dire, i pezzi grossi di questa emittente, però non fa niente, noi scherziamo, ridiamo. Giuliano Ferrara. Però vi devo confessare una cosa, le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, cioè ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale. Eliminatele, fate qualcosa, vi prego, strade in diretta, vabbè. Insomma, la parte più bella di questa è sicuramente l'ultima, in cui dice eliminatele, fate qualcosa, titoli del TG3. Berlusconi: contro di me solo spazzatura, la sconfiggerò come a Napoli, nuovo attacco ai giornali, in forse la candidatura di Mauro a Strasburgo. Fini: una democrazia inefficace alimenta il cesarismo e progetti autoritari, a rischio non il governo ma la fiducia dei cittadini, Avvenire attacca il premier. Domenica e lunedì si vota anche per il referendum elettorale, ultimi appelli al sì dei promotori, ma c'è anche chi punta al no o all'astensione. L'Istat registra un forte calo dell'occupazione, nei primi tre mesi dell'anno tagliati 204.000 posti di lavoro, più penalizzati i giovani precari. Napolitano, Europa più forte. Dopo gli accordi di Bruxelles serve un'intesa politica per la presidenza italiana di Strasburgo. Il pubblico ministero chiede una condanna a 3 anni e 8 mesi per i 4 agenti accusati di aver ucciso Federico Aldrovandi. Iran, vietata la manifestazione di domani, l'Ayatollah Khamenei si schiera con Ahmadinejad, il popolo ha scelto, dice basta con le proteste. La FAO denuncia, per la prima volta nella storia oltre 1 miliardo di persone soffrono la fame, incremento dovuto alla crisi economica globale. Andiamo a sentire anche i titoli di Sky, poi torniamo subito. Inchiesta di Bari, Berlusconi, spazzatura che farò fuori come a Napoli. Referendum e ballottaggi, oggi si chiude, ultime ore di campagna elettorale. Istat, l'occupazione torna a calare dopo 14 anni, persi oltre 200.000 posti. Il mondo senza cibo, dato shock della FAO, sono oltre 1 miliardo gli affamati. Rifugiati, l'appello di Napolitano, dobbiamo tutelare chi chiede asilo. Iran, Khamenei detta la linea, il popolo ha deciso, ora basta proteste. Delitto Meredith in aula a Perugia, i genitori di Amanda e Raffaele. Pirati del Golfo, ma è quello di Napoli, depredata la barca di un manager. Formula 1, la FIA alza il tiro, pronti ad azioni legali contro i team ribelli. Balotelli, Croce e Delizia, segna e si fa cacciare, azzurrini verso le semifinali. Tu sei una mala femmina, che sto a chi è fatta chiamerà, lacrime infamità. Femmina, se tu peggio una vipera, m'indussacata l'anima, non posso più campare. Io poi di spazzatura non mi intendo, perché a Napoli l'ho fatta fuori, farò fuori anche questa. Però sta faccia d'angelo, 19:22 800 24 00 24 per chiamarci. Tanti temi, non solo il nuovo Bari Gate o Cime di Rapa Gate o Puglia Gate su Berlusconi, che prospettive, quali possibili ripercussioni sulla stabilità istituzionale, ne parliamo ormai da diversi giorni e continueremo certamente a parlarne. Riprendiamo Carlo Rossella da questa mattina. Carlo Rossella, ricordate, quello che Franceschini definì il dipendente di Mediaset, e io personalmente mi arrabbiai, dipendente di Berlusconi, io personalmente mi arrabbiai moltissimo e continuo ad arrabbiarmi. Ciò non toglie che uno possa criticare Carlo Rossella quando dice delle cose, secondo me, che non stanno in cielo né in terra, perché descrive questa mattina, durante la trasmissione di Giuliano Ferrara, le feste di Berlusconi. Ora, le feste qui ha partecipato Rossella, non che tutte le feste organizzate da Berlusconi si svolgono nel modo descritto da Rossella, che è un modo, sentite. Si arriva a casa di Berlusconi, il premier in genere alle 9 non c'è perché è occupato, la festa in genere poi lui arriva, comincia alle 9:15, 9:20, ci siede a tavoli, mostra subito all'inizio un bellissimo documentario sull'Italia che lui ha regalato a tutti i membri del G8, si va a tavola e lì comincia il pranzo che viene continuamente interrotto perché Berlusconi viene chiamato al telefono, certo, da uno dall'altro, se ne va, lascia la stanza, poi torna, se ne va, lascia la stanza, poi torna, e poi ci sono dei cantanti, a volte c'è Mariano Picella, c'è un altro cantante napoletano, a volte lui canta una canzone, due canzoni, poi racconta qualche barzelletta, non sono mai barzellette scollacciate, tutti ridono, dopodiché lui parla di politica, illustra sì. La giornata, quando arriva 12:15 arriva il maggiordomo con in mano dei dossier, Berlusconi manda via tutti e tutti se ne vanno, punto. Io quando vado a cena a casa di Berlusconi alle 12:15, 12:30 sono a dormire. Beh, tutto questo è spettacolare, risposta molto breve ma significativa di un ascoltatore subito dopo. Io volevo fare solo una considerazione sull'intervento che ha fatto Carlo Rossella, no? Mi pare che abbiamo capito tutti che la festa cominciava quando Carlo Rossella se ne fosse andato a 12:00, no? Femmano, tu sei una mala femmano, che sto a chi è fatta chiamerà, lacrime infamità. Femmina, se tu peggio una vipera. Eccoci qui. Giampaolo Landi di Chiavenna, perché vuoi fare una cosa di questo tipo? L'assessore alla sicurezza, credo, del comune di Milano o altre cose, non lo so. Molti mi dicono no, anche nei paesi del nord proibiscono l'alcol ai minorenni. Ma che c'entra? Nei paesi del nord c'è un tasso di alcolismo alle stelle. Secondo me non è questa la strada, io rimango convinto. Non riesco a capire come si possa poi far applicare un'ordinanza di questo tipo, vietare la vendita di alcol ai minori, una cosa fuori dal mondo secondo me. Però qualcuno ci pensa, sentiamo perché. Questo abuso dell'alcol può effettivamente determinare e determina gravissime conseguenze anche alla salute, oltre al problema della sicurezza sociale, perché questi ragazzi che sballano di sera, eccetera, ubriachi e quant'altro, poi sono facile preda magari di abusi sessuali se sono ragazzine, o comunque non avendo più la capacità, l'autocontrollo, i freni inibitori, possono diventare soggetti anche di violenza o soggetti violenti fino ad arrivare alla famosa strage del sabato sera. Altri due temi, c'è l'assessore alla salute, Landi di Chiavenna, non è l'assessore alla sicurezza, l'assessore alla salute del comune di Milano. 800 24 00 24, un altro paio di temi, questa volta serissimi. Il caso di Stefano Lucidi, quello che investì due ragazzi, due fidanzati, 10 anni in primo grado, 5 anni in secondo grado, da omicidio volontario a omicidio colposo, e naturalmente la famiglia è molto arrabbiata. Voi che ne pensate? Lo voglio sapere tra poco, prendendo le vostre telefonate. Vi facciamo ascoltare adesso una conversazione, anzi uno scontro molto forte tra l'avvocato Coppi, che è l'avvocato che ha seguito, un avvocato molto famoso che ha seguito questo ragazzo, Stefano Lucidi, e la madre della ragazza, madre di Flaminia, Teresa Giordani. Sentite. Adesso ha dato una parola qua, va bene? Che è registrata. Ha detto che il signore, se così si può definire, che il signore farà in carcere quello che gli è dovuto, anche di più gli si dovrebbe. Io benissimo, allora io attendo, mi aspetto che lei sia di parola, mi aspetto che nessuno chieda che se ne vada a casa a riposare in pace. Mia figlia riposa sotto tesamente. Lei deve rispettare quello che decide la giustizia, dice l'avvocato Coppi. Ne parleremo più avanti. 800 24 00 24. Per chiudere vi dico una cosa. Non capisco tutte queste polemiche che ci sono sulla decisione, che è poi sperimentale, per carità, della provincia di Roma, di diffondere, di distribuire in alcune scuole romane della provincia di Roma il preservativo. Non riesco a capire le polemiche. Alcuni dicono non è così che si fa prevenzione, non è così che si fa educazione sessuale, tutti questi paroloni. Non capisco come una cosa del genere, che mi sembra assolutamente normale, possa suscitare questo scandalo. Canzone del giorno. Femmano, tu sei una mala femmano, casto a chi è fatta chiamerò. Forse vi piace più quella di ieri, lo so, sentite. Cavaliere, egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Marco da Pavia, buonasera. Buonasera. Prego. Dunque, io volevo dire una cosa. Io pensavo che il popolo italiano, io non premetto una cosa, a me Berlusconi è la persona più lontana da me e dalla mia possibilità di, però in questo caso devo difenderlo, perché io pensavo che l'11 aprile scorso il popolo italiano fosse andato a eleggere Papi, non il Papa, e di conseguenza se ha eletto Papi, cioè non dovrebbe fregare nessuno se una persona di 70 anni, 75, 80 abbia ancora questa voglia di vivere. Cioè, io trovo veramente scandaloso questo, e trovo scandaloso il motivo per cui viene messo tutto questo in ballo. Lei dice è ridicolo, i poteri forti, non i poteri forti, ma io trovo singolare, per esempio, che il capo la terza istituzione dello Stato, il signor Fini, che dovrebbe essere una persona che dovrebbe, non so, difendere i parlamentari, il Parlamento, parlare di queste cose, essere un po' super parte, si astiene dal voto durante le votazioni. E questo si è fatto un partitino che nessuno ha votato, perché forse aveva nostalgia del suo partito vecchio, e un giorno sì e un giorno no, dice cose che quelle sì che dovrebbero interessare i giornali e essere portate alla ribalta. Questo vuole farsi, se pentito vuole farsi una, va bene, si dimetta dalla sua carica e si faccia il suo partitino. Perché se la prende con Fini lei, scusi Marco, in questo frangente? No, anche per le cose, anche per le cose che ha detto oggi, a rischio la fiducia dei cittadini, non vedo problemi di stabilità, non ho capito. Io non ce l'ho con Fini. Lei dice sta facendo la sua politica, sta facendo il suo gioco, questo è evidente, ma cosa c'entra con la vicenda di Berlusconi? Infatti, perché si intreccia con tutte le altre, lei dice che non c'è il complotto. Guardi, io credo che non ci sia soprattutto quel complotto. Qualcuno ha parlato oggi, credo Italo Bocchino del PDL, in un'intervista, di servizi segreti deviati, perché no, non hanno controllato la sicurezza di Berlusconi. Però insomma, francamente questo mi pare una cosa senza capo né coda. Vedo proprio singole persone, per esempio Confindustria. A Confindustria gli servono le riforme e questo governo non gliele vuole dare. Ma io, per esempio, le riforme che darei a Confindustria sarebbe quella di abolire i paradisi fiscali, dove tanti imprenditori fanno affari e portano i loro soldi, o se no farei la riforma, per esempio, dei pacchetti azionari dentro le scatole, una dentro l'altra. Ma scusi, adesso cosa c'entra? Adesso, per carità, a me non me ne importa niente, non sto qui a fare la difesa di nessuno, però mi scusi, cosa c'entra adesso Confindustria, i paradisi fiscali? Lei sta dicendo che ci sono dei poteri, tra cui Confindustria, che potrebbero tramare contro Berlusconi, no? Mi sembra una cosa. Secondo me non gli piace a questo, cioè né a Fini né a Confindustria né per esempio la magistratura. Allora, qui con lei abbiamo raggiunto un'altra vetta del complottismo contro Berlusconi. Fini, Confindustria e qualche magistrato, cioè siamo veramente Sì, perché a me sembra singolare che la magistratura, che ha in mano una ragazza che ha confessato praticamente di volere ricattare Berlusconi, perché si reca, io non so se poi allora l'ha fatto o non l'ho fatto, ma si reca con un microfono, con un videotelefono, per invece di inquisirla, e io l'avrei anche arrestata, e viene rilasciata libera di essere intervistata. Vabbè, mi scusi un attimo Marco, se uno non è sottoposto a un'indagine per qualche reato, mi pare difficile che si possa pensare lontanamente di arrestarla. E poi mi scusi Marco, e la ringrazio di questa telefonata, comunque adesso lasciamo spazio ad altri ascoltatori, che Patrizia D'Addario possa essere il terminale magari di qualche giochetto tra imprenditori o di qualcuno che vuole fare le scarpe a Berlusconi, questo è possibile, ma insomma che sia il terminale di un mega complotto organizzato, come dice lei, da quelli cui Berlusconi non piace in questo momento, insomma mi sembra una roba fuori dal mondo. E soprattutto, per dire certe cose poi bisogna non solo fare dei collegamenti mentali mettendo insieme 1, 2, 3 le persone o le istituzioni o gli organismi che vogliono la testa di Berlusconi, o che secondo lei vogliono la testa di Berlusconi, bisogna anche portare, non dico un minimo di prove, ma qualcosa del genere. Mirko da Bari, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Niente, io intervenivo in merito alla questione del cime di Rafagate. Io, da quello che ho letto, praticamente Berlusconi questa volta non è indagato direttamente, le case di Berlusconi sono state solamente il luogo dove queste ragazze venivano portate, sì, ma che il principale indagato sia Tarantini, sì. Quindi io sono d'accordo con te quando si dice che non è un complotto, però la cosa che mi pare strana è che D'Alema, l'onorevole D'Alema, qualche giorno prima di questo scandalo, se così lo possiamo chiamare, abbia detto che il centrodestra veniva, nel centrodestra ci sarebbe stato un altro scossone. No, anzi, che nel paese ci sarebbe stata una scossa. Guardi, io non le so dire se D'Alema sapesse qualcosa dell'inchiesta. Non, lui dice di no, addirittura minaccia iniziative giudiziarie contro chi immagino dice cose di questo tipo. Però mi pare poco interessante, ecco, francamente, anche questo. Cioè cercare di capire come fanno alcuni esponenti del centrodestra, insistono molto su questo, sulle amicizie, sul un gruppo di magistrati molto vicini al Partito Democratico nelle varie procure di Bari, di non so di dove, insomma pugliesi. Bah, insomma, mi pare una cosa molto debole dal punto di vista, come dire, anche qua complottistico. La ringrazio, Mirko. Lidia da Torino. Buonasera dottore. Dica. Io quando ho sentito stamattina il dottor Ferrara che ha sbottato contro Niccolò Ghedini, mi sono ricordata in una vostra trasmissione di qualche mese fa, o forse dell'anno scorso, adesso non ricordo bene, di probabilmente un viva voce con il presidente Cossiga, dove parlando dell'avvocato Ghedini, lui aveva asserito che è simpatico. Non capisco come mai Berlusconi non sia ancora finito in galera con un avvocato così. E allora la cosa mi ha fatto sorridere, perché mi ha collegato... Magari dal punto di vista giudiziario Ghedini ha fatto bene, io non so dal punto di vista politico, non so giudicare. Secondo Giuliano Ferrara, da quello che abbiamo ascoltato, magari ve lo facciamo sentire ancora, da quello che abbiamo ascoltato prima, avrebbe bisogno di un consigliere politico, di un consigliere per la comunicazione o per quello che deve dire eccetera, un po' più come dire, un po' più sul pezzo, un po' più di sostanza. Sentiamo. Che dovrebbe fare Berlusconi secondo lei adesso? Non perché il problema di come si difende un premier è un problema politico per la Repubblica. Allora, io credo che tutte queste dichiarazioni è l'ultimo utilizzatore della merce, quindi non c'è niente di penalmente rilevante. Oppure l'altra cosa che ha detto Ghedini ieri, con tutto il rispetto per l'avvocato Ghedini che fa un mestiere difficile, dice ma che non deve pagare nessuno, potrebbe avere grandi quantitative di ragazze gratis. Ecco, tutto questo è assurdo. Intanto perché un presidente del Consiglio si fa difendere dall'avvocato? Un presidente del Consiglio si deve fare difendere da un genio della politica, da Rahm Emanuel. Si deve far difendere da gente che ha gli attributi, che sa cos'è il Parlamento, la classe dirigente, i giornali. Gli avvocati sanno solo delle stupidaggini che servono nelle aule dei tribunali. Scusi, lo so. Secondo me dovrebbe fare un po' come insomma, questo. Ma congedi l'avvocato. Fare una bella intervista in cui spiega le cose. Lidia, condivide? Condivido, sì. Condivido perché intanto anche stasera che ho visto Sky... trovo che sia il Presidente del Consiglio, che considero una persona intelligente, poi cioè è noto a tutti che lui sia un po' fuori dalle righe per certi versi, no? È un personaggio scomodo per tante persone, sia a livello politico che sotto altri profili, sicuramente, per quello che sento, per quello che leggo ovviamente. Però che si faccia sentire anche in questa telefonata, che non ha nulla di che, come giustamente aveva detto lei o sentito al TG, lì all'Unione Europea con una telecamera davanti, cioè non è attento per niente. E in una situazione così, io la penso abbastanza come qualcuno che dice ma... non so, a livello politico non ce l'hanno fatta a destabilizzarlo perché è forte, perché ha una forte carisma, però... eccetera. A livello legale c'è il lodo Alfano. E certamente che nella vita privata di Berlusconi, secondo me, vai sul sicuro. Però io dico, perché secondo lei si va sul sicuro? Perché ma sul sicuro perché mi dà l'impressione una vita che disordinata, una persona comunque senza fare chissà che cosa, comunque si ama attorniarsi di persone, di attori, ma quello non è mica uno scandalo di per sé. No, ma assolutamente, però magari se scavi trovi sempre la persona che magari a cui lui ha promesso qualcosa, che poi non l'ha mantenuta. La ricattabilità, insomma. Ecco. Lidia, la ringrazio. Oggi, tra l'altro, qualcuno si scandalizza per delle foto pubblicate dall'Espresso in cui c'è quello yacht di Berlusconi in Costa Smeralda con 4-5 ragazze a bordo. Adesso, insomma, francamente questo mi sembra esagerato. Intanto Berlusconi dice da Cinisello Balsamo, dove chiude la campagna elettorale per le provinciali, è inutile che sperate di buttare giù il governo e la maggioranza con trame giudiziarie e attacchi mediatici. Siamo la maggioranza in un paese democratico, la maggioranza governa. Più continuate a fare così, più mi convincete a restare, mi fate pena, mi fate disgusto. E si rivolgeva a un gruppettino di contestatori da una piazza accanto e alla sinistra in generale. Carmine, provincia di Lecce, buonasera. Buonasera Cruciani, di Lecco. squisita con Lecco. Lecco, no, va bene, allora, per carità. Non ci mancherebbe. Spero che non ce l'abbia con la provincia di Lecce. No, no, per l'amor del cielo, però ci tengo che Lecco no, è certo. Uno. Vabbè, provincia allora, di Lecco, io fosse per me non esisterebbe la provincia di Lecco, però sì, purtroppo. Sì, è una delle nuove province, ero sotto Bergamo. Abbiamo la provincia di Lecco, Abemus, provincia di Lecco, pure ecco. Questa ci doveva capitare. Allora con io tutto il rispetto la... per Lecco, sì, sì. Per i lecchesi, ne conosco molti, ce ne sono tantissimi qua, anche una di fronte a me qua. Va bene, allora io lascio la vicenda a Berlusconi e ad altri ascoltatori. Io voglio sapere, non ho capito bene il suo pensiero in merito all'assessore Landi sul divieto ai minori di 16 anni di vietare l'alcol. Ecco, perché io credo che sia comunque sacrosanto tentare qualcosa per vietare. Che questi giovani... Guardi, molti ascoltatori mi hanno scritto in realtà la somministrazione, non la vendita, la somministrazione di alcol, qui c'è un gioco un po' strano, la somministrazione di alcol ai minori di anni 16 è già vietata, poi in realtà non viene applicata quasi mai. Un altro mi segnala che una coppa a Genova bisogna mostrare la carta d'identità prima di acquistare un alcolico, può darsi. A me sembra un inutile sforzo proibizionista, francamente. Non credo che, tra l'altro, vietare una cosa del genere a Milano sia qualcosa di produttivo per i milanesi. Insomma, uno se vuole poi magari se le va a prendere da un'altra parte le bevande alcoliche. Ecco qua Berlusconi e Cinisello Balsamo, un attimo. Consiglio, lui ha detto è inutile che speriate di buttare giù il governo e la maggioranza con trame giudiziarie e attacchi mediatici, siamo la maggioranza e in un paese democratico la maggioranza governa. Vabbè, anzi, questo è il riassunto della giornalista di Sky, magari ci fanno ascoltare la voce di Berlusconi, sarebbe meglio. Comunque l'ultima ora è questa, sinistra fa pena, trame non mi buttano giù. Allora Carmine, lei resta convinto che sia giusto invece vietare la vendita di alcolici o comunque fare dei provvedimenti da questo punto di vista? Almeno tentarci. Tanto poi i ragazzini manderanno l'amico più grande a comprarlo, oppure sarà difficile attuare i divieti, però almeno tentare, perché può essere utile comunque tentare. Sì, non so, tutto qua. Sì, io prima ho detto non capisco perché, come si fa a pensare una cosa del genere, mi sembra una follia, rimango della mia idea, poi sentiremo più avanti l'assessore alla sanità di Milano che vuole farlo, ma ho grandi dubbi. Nicola, sempre da Milano, buonasera. Eccomi, buonasera. Dica. Volevo resisto alla tentazione di parlare di Berlusconi, ma se ne parla fin troppo. Mi interessava la faccenda della proibizione ai ragazzini di comprare l'alcol. Io ho due figli sparsi in due paesi dove la proibizione è molto severa e arriva a livelli per cui nelle feste private, la polizia, parlando del Canada per esempio, sì, la polizia sì. Può entrare nelle case private e analizzare e ispezionare a proprio piacimento quello che stanno facendo i ragazzi nella festa privata in casa. Sì. La cosa che mi racconta mia figlia, che è là, che questo non impedisce assolutamente, non solo che bevano alcol, ma in realtà fanno consumo di qualsiasi altra cosa influisca in un modo o nell'altro sul cervello, cioè droghe di ogni tipo, eccetera. Il punto quindi è che il proibizionismo storicamente non ha mai diminuito il consumo della sostanza proibita, anzi incrementato e ha incrementato e alimentato tutto un sistema di mercato intorno alla sostanza proibita. Dove voglio arrivare è che la proibizione dell'alcolico al sedicenne, al quindicenne, ha una funzione che trasforma l'alcol in sostanza che ha lo stesso fascino che hanno tutte le droghe sui teenagers di ogni paese e di ogni latitudine. Il che quindi ci dovrebbe far pensare a ripensare, scusate il bisticcio, a tutto il sistema delle proibizioni. Non esiste una sostanza proibita che in realtà sia scomparsa dal mercato, ma anzi è ben presente, alimentando un mercato parallelo, illegale e dannoso anche economicamente per un sistema paese. Guarda Nicola, io naturalmente mi fermerei però alla questione non generale del proibizionismo, antiproibizionismo, ma proprio all'attuazione pratica di una cosa di questo tipo, limitandola al territorio di Milano, come vuole fare l'assessore Landi di Chiavenna. A me sembra che al di là della questione generale, proibire, non proibire, quello che può venire fuori, eccetera, penso che sia una cosa difficile da far applicare e con risultati che si possono ottenere molto scarsi. L'assessore parla degli stupri, ma non necessariamente uno deve essere ubriaco per stuprare qualcuno. Riccardo da Prato, buonasera. Buonasera dottore, io passo la mia vita in macchina e quindi la sento quasi quasi tutte le sere. Su quei motivi, diciamo, gli argomenti che ha lanciato, ecco, volevo intervenire principalmente su quel discorso dei due giovani che... Pronto? La sento. Che dei giovani che sono stati, diciamo, uccisi, perché è quella magistratura, io la chiamo la mala magistratura, gran parte della mala magistratura italiana, interpreta la legge in un certo modo. Però qui mi permetto di dire una cosa, sarà stato molto bravo l'avvocato del ragazzo, di questo Stefano Lucidi, perché non è solamente questione di interpretazione dei magistrati. Allora non è più legge, allora sono i professionisti che hanno in mano la legge e che la interpretano e fanno e lavano il cervello a queste, mi passi il termine, brutte toghe, strane, alcune, non tutte per fortuna, però a volte mi vergogno io di questa magistratura italiana. Io sono uno che ha fatto politica da diversi anni a livello locale, ho sempre votato centrodestra e quindi anche tutto ciò che è accaduto intorno, guardi, e non sono un berluschino io, perché io, pur essendo di centrodestra, certi atteggiamenti del leader... Non so perché, molti che ci chiamano e dichiarano di essere più o meno elettori del centrodestra, cosa che io non sopporto, questa cosa di io sono elettore del centrodestra, secondo me il voto è qualcosa... No, ma non sto parlando di lei, Riccardo. Ho militato in questo... No, per esempio per me il... Per me, perché cosa è indignato? Per la collettività, portare avanti la politica di un centrodestra, io... Sono impegnato. No, io dico che elettore di centrodestra, no? Quando uno dice una cosa di questo tipo, è come se fosse una sorta di timbro che ti resta addosso, o anche elettore di centrosinistra, per carità. Secondo me il voto è qualcosa che inizia e finisce nel momento in cui uno entra dentro l'urna. Ma sto scherzando, un altro discorso questo, Riccardo. Vabbè, insomma, voglio dire, lei dice la magistratura, evidentemente c'è qualcosa che non va, se i giudici di primo grado ti condannano a 10 anni per omicidio volontario e poi si passa all'omicidio colposo. Però questa è la giustizia, bellezza, uno potrebbe dire. Cioè, qui ci sono gli avvocati, in questo caso un avvocato molto bravo, e questo sicuramente ha pesato, l'avvocato Coppi. Ma non mi sembra giusto questo, l'avvocato bravo e stravolge, diciamo, ciò che poi la giustizia... L'omicidio colposo è stato... L'omicidio volontario fu una grande rivoluzione da un certo punto di vista, no? Quando c'è stata la sentenza sull'omicidio volontario, credo fosse la prima volta. Sì, volevo dire un'altra cosa molto veloce per quanto riguarda la storia Berlusconi, che lei sta trattando egregiamente, però naturalmente è importante, dico, però insomma a un certo momento mi creda. E d'altronde poi si sa che il nostro Berlusconi è un gigione che gli piace anche essere oggetto e compagno. Poi naturalmente, come si circonda anche di soggetti, mi passi... Lei minimizza, ma poi si circonda, l'ultimo che si è circondato di un altro gigione e che è uno sciupafemmine, un certo Verdini addirittura, che a livello nazionale è diventato uno dei tre coordinatori, ma scherziamo. Anche lui uno sciupafemmine? Ma per carità di Dio, certamente è uno sciupafemmine. In che senso, mi spieghi? No, perché c'è una storia alle spalle, poi è stato prima volta condannato e poi è stato assolto, ma era chiaro che aveva sciupato una femmina. Vabbè, adesso, voglio dire, per carità, non ci facciamo chiamare da Verdini in diretta per farci ricordare questa, però anche lei, insomma, Berlusconi è circondato, non solo lui, uno sciupafemmine. No, a volte si circonda da soggetti strani che non conosce e dà fiducia a troppa gente strana. E siccome certamente capisco che non può essere l'unto del Signore che conosce le intenzioni di tutti, dovrebbe stare un po' più attento, insomma. Insomma, lei come elettore di Berlusconi però mi sembra molto autonomo, giustamente, molto libero mentalmente. Molto autonomo. Senta, perché non è d'accordo su questa questione degli scandali sessuali con quello che scrive per esempio oggi Gian Piero Mughini sul Libero? Le leggo un passaggio. Sì. Se è vero che questa Daddario ha conservato nel suo telefonino le immagini della camera da letto di Palazzo Grazioli, di cui è stata ospite ammirata e remunerata, allora è un po' diverso, molto diverso, diverso dalle fanciulle ospitate da Berlusconi in una splendente villa della Sardegna. Insomma, non è proprio la stessa cosa, non so perché lei minimizzi. Minimizzo in un certo momento, cioè, capisco con tutti i difetti può avere un gigione di Berlusconi, però certe cose le sta portando avanti, a difetto di tutto quel danno che ha fatto un certo Prodi, non mi riesce neanche chiamarlo Prodi, del governo precedente. bisogna anche dargli la possibilità di governare. Ha vinto le elezioni democraticamente e insomma con tutto ciò che butta dentro il marcio e la porcheria, vabbè, da Franceschini a Baffetto, dal malefico di D'Alema. Vabbè, ma Riccardo, adesso stiamo tracimando. La ringrazio, so, la ringrazio. Va benissimo. L'ultima cosa e poi chiudo. Troppo. Dove andiamo? Claudio da Milano. Claudio. Cruciani, buonasera. Buonasera, dica. Pronto, ecco. Volevo ritornare sul discorso del proibizionismo in Italia, di quello che tutte le leggi si fanno sul proibire e quant'altro. E sono d'accordo con lei, non serve a niente proibire l'alcol quando poi si vendono gli alcolici nei supermercati e chiunque può andarli a comprare. È una stupidaggine grossa come una casa. Ma magari vogliono vietarlo anche nei supermercati, cioè, adesso sentiremo da Landi di Chiavenna, se, quando lo chiamiamo, che, come vuole farla questa roba, perché io non la capisco. Ma non capisco, il divieto è berlo oppure comprarlo? Questo beh, comprarlo, cioè, vabbè, berlo, insomma, mi sembra mi sembrerebbe. Allora, se si compra e si beve a casa è un discorso, se si compra e si beve e poi si va in macchina, ma comunque come si fa a gestire una situazione del genere? È impossibile, è ingestibile. Beh, in teoria se c'è la minaccia della chiusura del ritiro della licenza per chi vende ai minori, ma minaccia vera, non finta, può darsi che possa funzionare, però basta appunto uno di 18 anni che va lì, si compra 50 birre e le distribuisce agli amici suoi. Esatto. No, mi sembra una cosa... È come proibire qualcosa di più pesante come la droga. Io penso, sono uno di quelli che pensa che se la droga fosse gestita diversamente, tutta questa criminalità organizzata probabilmente non avrebbe tutto. Ma quello è un discorso diverso, secondo me. Molto diverso. La ringrazio. 19:56 e 25. Vuole aggiungere qualcosa? Che voleva aggiungere? Non c'è più. Andiamo a Ferrara da Daniele. Buonasera. Buonasera Cruciani, dica. Sono un po' emozionato, scusa, la prima volta che prendo la linea. Anzi, però, volevo intervenire, tranquillissimo, dica. A proposito della sentenza dell'automobilista che ha travolto i due giovani a Roma, del fatto che abbia preso solo, tra virgolette, 5 anni. Io per principio ritengo che sia in realtà giusto che il giudice non abbia considerato volontario il fatto che un automobilista in realtà volesse prendere sotto uccidere una persona aberrante, a meno che non sia pazzo. Cioè, secondo lei la volontarietà è difficile far passare il concetto di volontarietà? Non è difficile. Un attimo solo, Daniele, TG5, resti con me. Berlusconi continua a lavorare per il bene dell'Italia e della comunità internazionale. L'inchiesta di Bari è solo spazzatura, la farò fuori come ho fatto con quella di Napoli. Domenica 21 e lunedì 22 giugno gli italiani tornano alle urne per votare i 3 referendum di modifica della legge elettorale, in alcune città anche per i ballottaggi delle amministrative. L'Istat fissa al 7,9% il tasso di disoccupazione in Italia, la media europea oltre il 9%, superiore al dato italiano. Sacconi, meno peggio di ciò che temevamo. L'Ayatollah Khamenei si schiera con Ahmadinejad. Il popolo iraniano ha scelto basta proteste, vietata la manifestazione dell'opposizione di domani. A Roma, pena dimezzata da 10 a 5 anni per il pirata che travolse e uccise 2 fidanzati passando col rosso. A Venezia, chiesti 173 anni per i 72 gondolieri che bloccarono il Canal Grande. Domenica è il solstizio d'estate, ma solo sul calendario. Dopo il grande caldo, nelle prossime ore, temporali e temperature in picchiata, a cominciare dal nord. A Silverstone è rottura tra la federazione e i team dissidenti, capitanati dalla Ferrari. A rischio un business miliardario. Va bene, prima di tornare da Daniele sentiamo anche i titoli del criticatissimo in questi giorni TG1 di Augusto Minzolini. Berlusconi, le trame giudiziarie e gli attacchi mediatici non mi buttano giù, farò fuori tutta questa spazzatura. Schifani e Fini, nessun rischio per il governo. Franceschini, l'esecutivo pensi alla crisi. La maggioranza si vuole delegittimare il premier. L'Ayatollah Khamenei dalla parte di Ahmadinejad, basta proteste, una manovra dell'Occidente, incertezza sulla manifestazione di domani. Pirati nel golfo di Napoli abbordano uno yacht, buttano in acqua il proprietario e un suo amico e fuggono con la barca. Palermo, sciolto nell'acido, un uomo rapito 9 anni fa, giallo risolto grazie al disegno della figlia minorenne che era con lui. Ballando a Rimini, 25.000 per i campionati nazionali e nel festival della danza sportiva c'è anche quella del ventre. Va bene, allora Daniele, ha sentito anche nei titoli del TG5 la vicenda di Roma, sì, di certo. Stefano Luci, da 10 a 5 anni. Lei è convinto che è difficile provare la volontarietà in un incidente stradale? Certo, insomma. Certo, in genere, perché comunque è un evento teoricamente molto probabile, insomma, chi viaggia in macchina lo sa benissimo che nel corso della sua carriera gli schiaffi ti travolgono un pedone o qualcosa in un ciclista, insomma, è andata bene, bene così, insomma. Però voglio dire, quello che in realtà non è stato punito è stato dato poco peso all'aggravante, cioè nel senso che io come Stato ti posso capire, nel senso che te hai potuto uccidere una persona guidando una macchina, perché è un evento probabile, probabile comunque possibile, però non ti perdono se te in realtà o sei ubriaco o sei drogato o sei passato col rosso, in realtà cade quella giustificazione che lo Stato fondamentalmente ti dovrebbe dare anche da un certo punto di vista, se è uno Stato giusto, insomma. E quindi se io ti trovo che hai ammazzato una persona ed è ubriaco, cioè non te ne do 5 di anni, cioè l'aggravante del fatto che sei ubriaco, però hai ammazzato una persona, ti do altri 5 anni, mi dispiace. Cioè, sì, non so se siamo state. Ho capito, Daniele. Non hai diminuito le possibilità. Le aggravanti, io non so se siano già state in realtà. Comprese le aggravanti in questo caso, credo proprio di sì. Questo è ancora più sorprendente vista l'entità finale della pena. Tra l'altro, uno degli avvocati di parte civile oggi in un'intervista sostiene che tra un anno questo personaggio, Stefano Lucidi, sarà affidato ai servizi sociali e così uscirà, cioè tra un anno sostanzialmente sarà libero, magari potrà ottenere anche i domiciliari, insomma è questo sistema. Questo sistema che poi prevede appunto continuamente delle possibilità di redenzione, delle possibilità di farla franca alla fine, che molti dicono da tempo che va rivisto, alla fine siamo sempre lì. Michele da Genova, anzi prima di Michele da Genova c'è Roland da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani, innanzitutto complimenti per la trasmissione, grazie per lo spazio che dà a noi un utilizzatore finale, mi passi la battuta. Questa non è male, anche se poi spero che gli utilizzatori finali, insomma, in questo caso siano di diversa natura. Insomma. Sì, no, per carità, per carità. Ascolti, io credo che sia stato molto disonesto cercare, soprattutto per quanto riguarda la stampa, di ricondurre le vicende del nostro Presidente del Consiglio, ecco, a puro gossip. Cioè, nel senso, sono anche se ultimamente, e mi fa piacere, stiamo arrivando più o meno al nocciolo della questione, che è una questione istituzionale. E quale sarebbe la questione istituzionale secondo lei? La questione istituzionale secondo me è questo, è che prima cosa, il Presidente del Consiglio secondo me non è un privato, è anche in camera da letto è il Presidente del Consiglio e rappresenta comunque la Repubblica Italiana in tutti i sensi, per cui non può, secondo me, dire bugie, smentire, pensare e pretendere che quello che dice noi dobbiamo comunque ingoiare come se fosse una pillola e deve essere la verità istituzionale. Però mi scusi, siccome ogni uomo politico ha diritto alla sua privacy, alla sua vita privata, come un qualsiasi altro cittadino, lei dice fino a un certo punto, però ci sarà un discrimine, un limite, qual è questo limite secondo lei? Allora, il limite secondo me è tutto nel rispetto dell'istituzione, cioè nel senso rispetto dello Stato, che prima viene lo Stato, le sue istituzioni e dopo la persona. E dunque no, però mi traduca questa cosa nella vicenda Berlusconi, cioè io voglio capire questo. Che cos'è che ritiene grave lei? Io ritengo grave innanzitutto che il Presidente del Consiglio menta spudoratamente. Ma questa qua, la menzogna o non la menzogna? Mi scusi, su quello si può discutere. Secondo Berlusconi non ci sono state bugie, secondo altri ci sono state invece piccole bugie, mezze verità, eccetera. Ecco, per esempio, sì, ha ragione su questo, però quando si parla di piccole bugie, mezze verità, secondo me un Presidente del Consiglio non deve lasciare correre mezze verità, piccole bugie. No, ma questo è un problema di comunicazione, non la mettiamo sul problema della menzogna, non menzogna. No, secondo me è proprio un problema di fatti, sostanza, sì, perché sì. Le faccio un esempio, nel senso adesso io non volevo entrare nei dettagli delle facce vere, delle faccende, perché sinceramente non è quello che mi interessa, però le faccio un esempio. Se il Presidente del Consiglio a porta sostiene di non aver mai frequentato questa o questa ragazza e poi si scopre e dopo ammette di sì, secondo me non è proprio un mezza punta. Sì, guardi, il problema è di comunicazione, non è un problema che ha detto una cosa piuttosto che un'altra, eccetera. Berlusconi non doveva andare a fare quella puntata di Porta a Porta. Secondo me in questo periodo è stato consigliato male, molto male, e ne parleremo fra poco con un ospite d'eccezione che finalmente abbiamo raggiunto, però c'è la pubblicità e allora ci aiuterà, che è Vittorio Sgarbi, che saluto, buonasera. Eccolo. Sopportiamo anche la pubblicità, Sgarbi, sopporti con noi. Ed è inutile che speriate di buttare giù questo governo e di buttare giù questa maggioranza e di mandare a casa tutti noi con le trame giudiziarie, con gli attacchi mediatici. Siamo la maggioranza del paese, dovete rendervene conto, e in un paese democratico la maggioranza governa. Ma insomma, dovete vedere Berlusconi alla conclusione di questo comizio a Cinisello Balsamo con le vene fuori dal collo. Vittorio Sgarbi, che cosa può succedere adesso? Qualcuno dice a Berlusconi che dovrebbe fare qualcosa, parlare al paese, così la pensa Giuliano Ferrara. Insomma, che sbocchi può avere questa vicenda della Barigate? Beh, l'aspetto comico, state zitti un attimo che devo fare un'intervista. L'aspetto comico di una vicenda che può finire in una risata o in una tragedia personale. Insomma, l'ipotesi di Ferrara è quella della tragedia personale, sì, che fa riferimento al 25 luglio. È una tragedia soprattutto per Berlusconi, perché poi gli altri rimangono, rimane Schifani, rimane Verdini, rimangono delle figure che... Bisogna vedere quello, se rimangono. Rimangono così nelle istituzioni, poi è chiaro che non è che il passaggio può essere immediato, sì, no, certo. Sia che siano le elezioni, sia che sia un altro governo, dipende dal tipo di scandalo che sta dietro questa ragazza. Che lei ha conosciuto, no? Che io ho conosciuto, infatti non me la ricordo, quindi se non me la ricordo io se la può anche non ricordare il Premier. Il tema è sostanzialmente questo, che il Premier deve convocare la conferenza stampa e fare la seguente dichiarazione. Mi piace la gnocca, non rompete i coglioni. Che è un dato semplice, che è condiviso da gran parte degli italiani e che corrisponde a una sessualità normale. Abbiamo avuto in Parlamento, eletta con Rifondazione Comunista, guardata con ammirazione, fino a diventare una grande star televisiva, Vladimir Lussuria, che ha esordito con un'intervista dicendo: io battevo sulle strade, io l'ho vista battere, l'ho vista per primo, ho visto una figura con un nasone una volta, mi sono incuriosito perché era particolarmente pittoresca, poi molto intelligente e spiritosa, stava battendo ed era in Parlamento, ribadendo la necessità e l'utilità di socializzare facendo la prostituta. Allora, se questo è già accaduto, che uno abbia una sessualità normale non è una cosa stupefacente, non capisco perché Berlusconi neghi. Allora, siccome io credo che la gnocca sia ricostituente, se uno scopa bene, governa bene. Infatti adesso che lui ha dei problemi perché deve controllarsi, ha sempre l'aria un po' tirata, quindi dobbiamo fornirgli quantità non modiche di ragazze per consentirgli di governare meglio, come ha fatto fino all'altro ieri. Però mi scusi, no? Qualcuno la mette sul piano della ricattabilità e anche della... Quale sarebbe la ricattabilità? Nessuna, cioè il fatto che una donna... Beh, se tu prometti qualcosa che poi... Va con un uomo ricco, no, non deve promettere niente, perché qualunque donna va con Berlusconi non perché è un bel ragazzo, ma perché è un uomo potente e ricco. Allora è la stessa sindrome che Sofia Loren stava con Ponti, Zeuri Araia stava con Cristaldi, cioè le donne belle vanno con gli uomini ricchi. Se poi qualche coglione, o non soltanto ricco, le vuole pure pagare prima... come dice Ghedini, questo è un problema che riguarda la fonte, ma è evidente che una donna per andare a pranzo con Berlusconi, soltanto la curiosità dà uno stimolo sufficiente, non mi pare che ci sia nulla di male, quindi il problema è soltanto suo. Sì, secondo lei, scusi Sgarbi, secondo lei non c'è un problema di tipo anche di sicurezza, i telefonini che riprendono le foto dentro il letto di Berlusconi, c'è un problema che riguarda la dignità dell'istituzione o no? Questo è un problema, siccome qualunque istituzione caga, scopa, piscia e mangia, allora non è che dobbiamo stupirci che una, se una va a scopare con Berlusconi e riprende la scopata, è un problema di cui a un certo punto dovremmo anche darci ragione. Cioè, ma uno non, queste cose qua si fanno, ma non si dovrebbero sapere, non è d'accordo? Cioè, tutti gli uomini politici le fanno. Politica. Siccome anche lei probabilmente scoperà tranquillamente, se si trova una che la vuole riprendere, sono problemi suoi. Anche gli studenti, anche a scuola, le studentesse. Però quello è il Premier, io non sono mica il Premier. Ho capito, ma in qualunque ruolo c'è qualcuno che può approfittare di una intimità per farne una cosa pubblica. E questo, secondo me, ormai è talmente mitridatizzato che fra un po', più vanno avanti queste vicende, più il Premier sarà assolto, assolto dal punto di vista del Però mi scusi, Sgarbi, lei ha fatto, per esempio, della sua vita privata spesso un. Della sua vita pubblica assolutamente qualcosa di no, che di unito, insomma, non c'è il problema di Veronica. Ho capito, insomma, lei lo poteva fare, Berlusconi capito, forse un po' meno. Sto dicendo, no, ma io siccome voglio arrivare al punto estremo, dico tutta questa vicenda è veramente preoccupante. Non fosse che lui ha un unico modo di fugarla, la dichiarazione alla stampa, mi piace la gnocca, non rompetemi i coglioni. Ma se non fa questa dichiarazione, quando nega, quando parla di complotto, attribuisce, l'errore è attribuire a D'Alema. D'Alema ha un problema, D'Alema è monogamo e fedele alla moglie ed è per quello che ha quell'aria così, come dire, un po' sfigata e un po'... Cioè quando lei vede D'Alema, vede uno che ha un po' di astio determinato dal fatto che ha una fedeltà coniugale che lo rende un pochino così più nervoso, incazzato. Invece quell'altro è socievole. Poi io l'ho visto un giorno uscire da un negozio di bigiotteria con 10 anelli nelle dita da regalare, sembrava così Babbo Natale, cioè lui è così. Allora il problema è che se uno questa cosa la fa non si deve vergognare. Se cerca di passare per Fini o per Casini o per qualcuno che tutto casa e bottega. Beh, insomma, sono Fini e Casini, chi è Casini, casa e bottega? No, sono casa e bottega, nel senso che hanno scelto la seconda donna, che è già di per sé una cosa non regolare rispetto ai principi della Chiesa. Però sono molto fedeli. Se immagina cosa fa Azzurra se Casini fa lo spiritoso, gli dà 4 schiaffelloni, così cosa fa la Elisabetta Tugliani. Quindi quei due sono diventati assolutamente dei bravi ragazzi. Quell'altro invece è un vitellone del genere di Tognazzi nel film Amici miei, il conte Mascetti, e deve dire io sono il conte Mascetti, lasciatemi trombare libero, cioè se dice questo è finita. Però siccome lui vuole, ma chi lo consiglia, secondo me chi lo consiglia Ghedini? Ma lei come lo giudica Ghedini? Ferrara dice, le faccio sentire una cosa di Ferrara su Ghedini che è esilarante, esilarante, sentiamo Ferrara su Ghedini, prendiamola, acchiappiamola, eccola qua. Che dovrebbe fare Berlusconi secondo lei adesso? Non perché il problema di come si difende un premier è un problema politico per la Repubblica. Allora, io credo che tutte queste dichiarazioni è l'ultimo utilizzatore della merce, quindi non c'è niente di penalmente rilevante. Oppure l'altra cosa che ha detto Ghedini ieri, con tutto il rispetto per l'avvocato Ghedini che fa un mestiere difficile, dice ma che non deve pagare nessuno, potrebbe avere grandi quantitative di ragazze gratis. Ecco, tutto questo è assurdo. Intanto perché un presidente del Consiglio si fa difendere dall'avvocato? Un presidente del Consiglio si deve far difendere da un genio della politica, da Rahm Emanuel. Si deve far difendere da gente che ha gli attributi, che sa cos'è il Parlamento, la classe dirigente, i giornali. Gli avvocati sanno solo delle stupidaggini che servono nelle aule dei tribunali. Scusi, è lo scopo. Secondo me dovrebbe fare un po' come Clinton. Ma lo congedi l'avvocato Ghedini. Fare una bella Sgarbi, questa qua è una perla straordinaria. Insomma. La cosa che dico io, cioè la persona che deve difendere Berlusconi è Berlusconi stesso. Quando lui parla di utilizzatore, quantità, sembra che parli di coca, diceva giustamente oggi il Riformista. Allora, questo traslare l'attività sessuale in quella di chi prende la cocaina è la terminologia degli avvocati che difendono uno che comunque è colpevole di qualcosa. Certo. Non è colpevole di niente, perché scopare non è un reato, è un fatto curativo, la gnocca cura. Cioè se uno scopa bene, come Kennedy è il modello di Berlusconi, o ci vuole uno come me che andava in televisione tutti i giorni a dire il nostro premier ha come modello Kennedy, non Obama o Clinton, ha uno che trombava una al giorno ed era il primo presidente di tutti i tempi. Ma Berlusconi non avrà la forza di fare dichiarazioni di questo tipo. Ma Kennedy però sarà un buon modello. Gli portavano una ragazza al giorno, si è trombato Marilyn Monroe, ha fatto qualunque cosa, è stato... Allora, il problema è che se uno deve fare anche il premier dei preti, per cui dire no, ma io sono stato abbastanza fedele a Veronica, no, io l'ho solo carezzata e venivano lì e davo dei bacetti, ho letto la storia dei bacetti, ma che bacetti? Se le trombava giustamente, e nel trombarsele ha fatto una cosa sacrosanta, che è una cosa normale che volevano fare gli italiani, rappresenta l'italiano scopante, non l'italiano che lo prende nel culo, che è quello che non va bene e che invece è quello che abbiamo dovuto guardare con ammirazione in Vladimir Lussuria. L'italiano buono e l'italiano serenamente trombante. Non ci farà di male. Questa è la dichiarazione di Berlusconi, secondo Sgarbi dovrebbe essere questa. Io. Che lui va a dire no. Non è vero, è un complotto. I servizi segreti, ho letto i servizi segreti, qualcuno dice. Non c'è dietro nessuno, c'è dietro che gli portavano queste ragazze e lui non andava tanto per il sottile. A casa mia arrivano ragazze continuamente, non è che chiedo se sono venute, spero che siano brave ragazze, ma se una è una che ha preso 2000 euro da quell'altro cretino di Bari e questa non va da Berlusconi per la giusta curiosità che avrebbe chiunque ad andare a vedere una bella casa da un uomo che è il Presidente del Consiglio, ma ci va perché è pagata, quella si chiama Troia e questo è il caso in esame. Ce ne possono essere 10, 20 così e lui può essere stato un allocco. Un po' di leggerezza, un po' di leggerezza, Sgarbi, persone che procacciano le donne, almeno uno se li dovrebbe scegliere bene o no? Sì, tutte le ragazze che hanno fatto cinema sono andate a letto con il produttore o con il regista. Allora, il tema cruciale è che la bella donna da sempre va con l'uomo ricco. Berlusconi è l'uomo ricco per eccellenza, quindi non è che va a prendere 200 euro come faceva Vittorio Emanuele, che voleva spendere 200 euro quell'altro poverino, o 1000 euro. È il fatto che può vivere nello sfarzo, può essere portata con macchine, aerei, e questo dovrebbe, può andare nelle grandi ville. L'apparizione di a Noemi della villa, figuriamoci i genitori che l'hanno spedita a calci nel sedere, vai con l'aereo di Berlusconi, cioè è tutto normale, cioè, non è che l'umanità, chiunque è attratto dalla ricchezza, dal potere, dalla curiosità, allora questo è, se no però lui non capisce, lui pensa di essere un cumenda di Arcore che ha bisogno di pagare la raccolta, sbaglia lui, cioè, io sono il Presidente del Consiglio, sono una Conte Mascet, anche il Conte Mascet, le donne vengono a visitarmi come vanno a vedere il Colosseo e poi già che ci sono le trombo, e questo è già che c'è, è normale, cioè non è poi così strano, però se non fa questa dichiarazione faticherà a uscirne, credo, temo. Va bene, grazie. Però vi devo confessare una cosa, le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, cioè ammosciano proprio, ammoscerebbero una tragedia di Sofocle, una commedia di Molière, proprio una cosa di una noia bestiale, eliminatele. Fate qualcosa, vi prego. Strada in diretta. Vabbè. Non smetto di ridere davanti a questa cosa di Ferrara. È da oggi che non smetto di ridere, da questa mattina. E poi c'è da aggiungere una cosa. Ma avete sentito quest'ultima pubblicità? Per carità, non voglio mica io offendere gli inserzionisti pubblicitari che sono strepitosi. Si dirà pure così in italiano, l'italiano corretto, uno pneumatico. Ma si può dire uno pneumatico? Ma è una cosa al di là del bene e del male. Mi dicono che l'italiano corretto è così, ma non si può dire uno pneumatico. Cambiate, fate un'altra pubblicità. Non è possibile, uno pneumatico. Ma come si fa? Io non riesco a sentirla, uno pneumatico. Ma è una cosa... Vabbè, Beppe da Catania. Salve, Luciano. Pronto? Sì, dica. Non è d'accordo, no, mi aiuti pure lei questo uno pneumatico. Quello che succedeva, io ho riso per Ferrara stamane riascoltandolo oggi e poi ridevo proprio per questa pubblicità strana. Comunque ci vorrebbe, come quando la Giordano faceva quella bellissima trasmissione diario, c'era il professore che ci diceva come si dice e il motivo per cui si dice così. Io volevo, no, ma si dice così, evidentemente si dice così, ma non si può fare una pubblicità a cui si dice uno pneumatico, ma che è? Cioè, no, sarà il motivo del latino che magari questa cosa fa così, io non lo so, però ma c'è un'altra cosa pure, gli pneumatici. Sono due punti, ma forse lo fanno apposta per farcela rimanere in mente, ne stiamo parlando alla fine, no? Stiamo continuando a fare pubblicità. Può darsi. Io chiamavo per il discorso di Lucidi, no? Che mi ha lasciato un pochino così oggi questa... la mamma poverina, io lo capisco, però io ci tengo soltanto a dire che comunque la pena è una pena che è finalizzata alla rieducazione, al reinserimento all'interno della società. Per me, ovviamente, una pena di quello che lei dice, un anno, poi intanto sono 5, poi che sia uno non lo sappiamo ancora, non è detto. No, è una previsione quella. Vabbè, certo. È una previsione, però le voglio dire una cosa, questo ragazzo ha fatto un errore bestiale, questa ragazza non tornerà più in vita. Sì. Lo scopo nostro come società oggi è quello di prendere quest'uomo e rifarlo tornare, perché alla fine cosa mi cambia a me? Cioè non è che torna questa ragazza in vita o facendo soffrire questo ragazzo, noi non siamo nella condizione di essere dei vendicatori, siamo nella condizione di essere delle persone che giudicano e reinseriscono nella società. Poi indubbiamente può questo percorso essere troppo breve, per carità, ma se basta perché farlo più lungo? Cioè lo scopo non è farlo, scusi, però il basta, chi lo decide il basta? Basta appunto, i tribunali naturalmente, però sì, perché io, lo dobbiamo fare soffrire? Cioè lui deve soffrire perché ha fatto soffrire? No, non è dente per dente. No, ci vuole una pena, mi scusi, però io lo capisco questo ragionamento ed è un ragionamento in linea di principio molto garantista, che per carità, insomma, lei sa che da questo punto di vista con me sfonda una porta aperta. Però c'è un però. Siccome ci sono circostanze, certamente se uno mette sotto una persona per un errore o insomma, non è che c'è sempre l'omicidio volontario dietro l'angolo. In questo caso mi sembra ci fossero tutti i presupposti. La pena 10 anni, poi sappiamo 10 anni cosa significa, lei lo sa benissimo, nella giustizia italiana non sono mai 10 anni. Portarla a 5 anni significa sostanzialmente far uscire fra poco tempo, è questo che è insopportabile, ha capito? Cioè, siccome 10 anni sappiamo che non sono mai 10 anni, se uno si comporta bene eccetera eccetera, 5 anni significa che non c'è nulla, si paga molto poco in termini materiali, poi si paga lo stesso, certo, non voglio dire che non si paghi, Cioè un anno di carcere un ragazzo di quell'età. Ma ho capito, ma ha ammazzato 2 persone, abbia pazienza. Io lo capisco, però allora diamogli 100 anni, diamogli 200, non lo facciamo uscire più, ammazziamolo. Cioè lo scopo qual è? Reinserirlo nella società. Se un anno basta, e sono 5, non è uno, se un anno basta, va bene un anno. Questo è un ragazzo che produrrà, rientrerà nella nostra società e ritornerà magari con un buco nel cuore, perché è chiaro, ma mi viene a me un buco nel cuore. Adesso io non lo so, gli avvocati, ho capito il suo ragionamento. Devo dire la verità, questo ragazzo aveva anche dei precedenti. Credo, magari gli avvocati adesso mi attaccheranno, insomma, non era proprio uno stinco di santo, ecco, insomma. Però questo non significa nulla. La previsione che uscirà tra poco la fanno dei tecnici andando a considerare diverse cose. Subito diversi ascoltatori che sono in attesa già da diverso tempo, poi mi faccio ascoltare altre cose. Ivan da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. No, io volevo rammentare che ci si scandalizza giustamente perché questo continuo stillicidio di notizie e pettegolezze su Berlusconi, però c'è anche a ricordare che non più lontano di 2 o 3 anni fa, quando il governo Prodi era debole, la stessa cosa riferita alla Sircana è durata 1 settimana. Cioè, per cui è evidente che poi alla fine l'uomo è uomo, per cui le ritorsioni di questo genere ci stanno. Ma guardi, adesso voglio dire, la vicenda di Sircana non è che è durata 1 settimana, si riferiva ad una foto, ad alcune foto. Era anche meno influente, era una persona al di là di tutto con un peso politico ben diverso. Eppure se ne fa una speculazione. Allora, o si decide tutti che queste sono stronzate e le si lascia da parte, o non si può pretendere, quando servono si usano per conto a conto parte, poi ci si scandalizza. A me non piace, però umanamente se uno mi dà uno schiaffo, scusate, ma se posso lo restituisco. Va bene, la ringrazio. Alfredo da Milano. La seconda... Sì, Ivan, devo fare molti ascoltatori che sono in attesa da diverso tempo. Velocemente, allora, la seconda cosa, dica. Ma riguardo quello che dicevate prima, io concordo con lei, cioè non si può paragonare un incidente comune in cui c'è una distrazione con un personaggio che passa, che ha dei precedenti, che passa 2 semafori a tutta velocità, non si ferma dopo l'incidente e si pretende che venga trattato sullo stesso piano di un comune distrazione o di un comune autista stradale. Per me sono 2 piani diversi, cioè riabilitazione finché si vuole, però se uno non gli si insegna queste cose è evidente che dopo 3 anni questo non è forte di niente di stare in quelle condizioni e lo ripeterà. La ringrazio. Umberto da Gorizia, eccoci qui Umberto, eccoci. Dani, io vivo a ridosso dell'Austria, Slovenia e Croazia, sa quanto ci ridono quando vado di là? Sempre per le gesta del nostro teatrante Berlusconi, ma vengo al fatto, hanno trovato dei rapinatori che facevano Friuli e Carinzia e come li hanno trovati? Con i tabulati telefonici e con le intercettazioni. Se questa legge andrà in porto è una legge per i delinquenti, non per gli onesti, perché gli onesti non hanno problemi. Di conseguenza a chi può essere utile questa legge sulle intercettazioni che tanto ha fatto il signor Berlusconi trascurando i problemi, che li vengano elencati da personaggi al di fuori della politica, la Marcegaglia, Mario Draghi, che faccia qualcosa per l'economia, se no faccia una guardi cosa. Umberto, restando alle intercettazioni, io non so se per quel tipo di reati che dice lei poi sarà rapine, impossibile, sì, sarà sì, impossibile sì, fare intercettazioni nello stesso modo di prima. Penso di sì, perché ripeto, è stata cambiata la natura, sì, la natura e la della norma. Dopo una settimana li tirano via il permesso con la legge. Ma no, io dopo dico una settimana, cosa, 60 giorni, che dice? Esatto. Ma io dico una cosa, non è proprio una settimana. Questo signore che ci governa, ma governi l'Italia dal lato economico, le sue pagliacciate, scusi il termine perché Sgarbi ha detto cose ancora più pesanti, no? Ma insomma, noi abbiamo bisogno di gente seria che dopo quello che ha detto Sgarbi, la parola pagliacciate mi sembra molto molto leggera. La ringrazio, Umberto. Michele da Genova, eccoci. Pronto? Dica, Michele. Eccolo, buonasera. Allora niente, volevo fare una dichiarazione semiseria, visto che adesso dichiarazione molto... addirittura, insomma. Sì, sì, sì. Visto che sembra molto di moda, molto chic fare outing in diretta, allora io voglio fare questo outing. Io sono ghiotto di spazzatura. Insomma, di questa spazzatura che il nostro ben amato presidente ci sta propinando a piene mani, me ne sto abbuffando, mi sto divertendo tantissimo a seguire questa situazione. Però devo dire un'altra cosa, non si deve preoccupare Berlusconi, perché tanto noi italiani siamo fatti così, no? Siccome siamo abituati a mangiare spazzatura, abbiamo una fantastica digestione, digeriamo tutto e dimentichiamo tutto nel breve tempo. Veramente sarà abituato lei a ingoiare spazzatura. Vabbè. Io non mi metto tra quelli Vabbè, che... evidentemente è un eufemismo, no? No, ma ho capito, certo è un eufemismo. Non mi sembra come italiano di ingoiare spazzatura ogni giorno, mi scusi. No, purtroppo no, il problema è che siamo pochi a non volerla ingoiare questa spazzatura. Gli eletti, insomma. Esatto, purtroppo sì. Certo, gli altri sono tutti dei poveracci che non capiscono. No, non sono dei poveracci, ma gente che non, mediamente la gente non si informa, non ascolta, certo, si vive addosso. Perché non facciamo una bella legge, Michele? Una bella legge che votano quei laureati, non so. No, ci mancherebbe, questo sarebbe veramente impensabile. Poi volevo chiedere invece una cosa invece seria, questa è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Insomma, ogni volta che si chiede a un ministro cose del genere, se questa la legge perché è stata fatta, la risposta è sempre, i sondaggi ci danno ragione, la gente è contenta, ma voglio dire, siamo abituati a misurarci su tutto, no? Sì. Ma il termine di misura del governo è il consenso popolare. Vabbè, innanzitutto non è che tutti i ministri rispondano così, anch'io penso che in genere le risposte dei politici alle domande siano ridicole e questa fa parte delle risposte ridicole, banali, ed è per questo che non amo molto intervistare i politici. Ogni tanto mi capita, ma insomma lo faccio malvolentieri. La ringrazio, Alfredo. Grazie da Milano, velocemente Alfredo. Sì, mi vorrei far ascoltare una roba, non so se possiamo usare, o siamo stasera, dopo Sgarbi si può fare tutto. È una Benigni che fa l'imitazione di una conversazione, a proposito di volgarità, di una conversazione tra Berlusconi e Sgarbi, sentite, eccezionale. Sgarbi se ne parla tanto, l'hanno fatto presidente della Commissione Cultura, l'ha fatto Berlusconi, ma dico c'è da piangere la notte, ma sarà importante la Commissione Cultura, mi ci metti Sgarbi, bottigliato in testa alla gente, schiaffi alle donne, puttana, e vaffanculo, parolacce, mandava a fanculo, ma che cazzo vuoi, ma io ti trombo, me la trombo, te la trombo, ma vattene a piangere il culo, ma li mortacci tu, e sti cazzi al culo ti strapazzi la sorca di tua sorella, ma vattene a fanculo, frocio, ma che cazzo, Berlusconi l'ha sentito, dice, cazzo, senti questo che neologismi, questo lo faccio presidente della Commissione Cultura, l'ha chiamato e l'ha messo lì, ma io poi mi sono immaginato, il dialogo ci deve essere stato fra quei due, quando gliel'ha proposto, no? Buonasera Sgarbi, sono Berlusconi. Senta un po', la volevo fare presidente della Commissione Cultura. Grazie, Frocio, accetto, ma vaffanculo di sti casi. Bene, le presento mia moglie, bella fregna, io masco farebbe volentieri. Oddio, io sono 30 anni che dico parolacce, ma avessero dato la pubblica istruzione. Questa cosa è eccezionale, 1994. Alfredo, prego. È volgare, per carità, però è comicità, insomma, comicità pura. Non è quella la volgarità, mio amico. No, ma certo. No, io volevo dire che, sinceramente, focalizzare il problema su cosa sia successo nelle stanze, nelle alcove, eccetera, io penso che non sia il vero problema. Il vero problema, a mio avviso, al di là di quello che sia successo, certo, poi dopo ci sono questioni che hanno rilevanza penale, sono cose che, se verificate, sarebbero veramente spregevoli, eccetera. Però io credo che la cosa seria, cioè da cui dovremmo discutere, è che c'è un atteggiamento, secondo me, nei confronti della gestione del potere, che passa anche attraverso le abitudini personali, che è quello di circondarsi delle belle ragazze, che diventano una sorta di vivaio da cui si pesca, per cui che domani diventano velina nelle tue televisioni. Vabbè, ma questa qua però fa parte di tutta questa letteratura intorno a Berlusconi, no, le veline, oddio, però, la televisione, insomma, poi quelle che vengono candidate in politica. Insomma, lasciamo perdere sarà una letteratura, però di fatto è anche un po' il suo costume, no? Allora, la cosa grave, secondo me, è quella di eleggere questo a sistema, no? E questo è il problema, e soprattutto il fatto di eleggere cosa a sistema, mi scusi, di eleggere cosa a sistema? Eleggere a sistema un modo di come dire, di rapportarsi nei confronti dell'elemento simbolico femminile, no? Questo diventa l'elemento che ti fa che arricchisce la tua vita, la tua noia. Vabbè. e anche lei la pensa come Lerner, decoro della, ma insomma, la persona, diciamo, no, che non vabbè, mica è un delitto, cioè, ma fondamentalmente la cosa grave, secondo me, è il fatto che grave per lui, fondamentalmente, e anche secondo me per chi poi lo sostiene, è che era candidato fondamentalmente a essere il presidente di tutti gli italiani, cioè avrebbe potuto, e allora invece che succede? E poi diventare presidente della Repubblica, avrebbe potuto per esempio fare un ministero, un consiglio dei ministri con personaggi di primissimo piano, avrebbe potuto fare. Però Alfredo, qui si va al giudizio politico su Berlusconi, che è una cosa molto diversa da quello che sta accadendo. La ringrazio, abbiamo chiuso per questa sera. Simone da Varese, Carlo da Milano, Laura da Milano, ci dobbiamo risentire lunedì.